Faccio un esempio concreto. Ho bisogno di riconoscimento. Bisogno di riconoscimento, sì, ma è un normale bisogno d'anima. Com'è il bisogno di attenzione, il bisogno di... Ecco. E allora, che differenza c'è con un bisogno carenziale che si esprime nello stesso modo? Dove sta la differenza? Dov'è la... Ecco. Quando si tratta di un bisogno carenziale, il bisogno dell'ego, quando diventa una pretesa, che gli altri lo soddisfino. Questa è la differenza. In realtà il bisogno di riconoscimento, che viene espresso in questo modo, ha a livello profondo un bisogno dell'anima che non è riconosciuto, è che è il bisogno di riconoscere. Quando noi parliamo di riconoscere per l'anima, si intende riconoscere e essere riconosciuto. Nel momento che riconosco, sto riconoscendo me stesso. E come dicevo prima, nel metamodello 2 non esiste l'attivo al passivo. Il riconoscere diventa il partecipare alla danza, l'onda quantistica, alla qualità vibratoria di riconoscimento come qualità dell'essere o qualità dell'amore. Quindi il vero bisogno è di praticare una specifica qualità dell'essere che è radiante e quindi come prima persona viene a irradiare esattamente il proprio sé. Questo. Compreso questo, ogni volta che noi ci troviamo di fronte a un bisogno carenziale, sappiamo che questo bisogno carenziale è tale perché diventa una pretesa che si è soddisfatta dall'altro. Nel momento invece in cui questo nucleo lo prendiamo come bisogno di esprimere quella qualità, e allora noi portiamo quella qualità nel mondo. E infatti, che cosa succede? Che i bisogni carenziali o bisogni compensativi sono delle spie delle qualità dell'essere che noi dobbiamo portare in manifestazione. Perché altrimenti riproduciamo il karma. Cioè, se noi abbiamo avuto un padre che non ci ha riconosciuto, noi tenderemo a non riconoscere gli altri e pretendere riconoscimento dagli altri. Ma invece, per sciogliere il karma, bisogna che impariamo che cosa? A riconoscere. Quindi, secondo il modello dell'ombra, se io dico io ho bisogno che gli altri mi conoscano, la trasformazione è io ho bisogno di riconoscere gli altri e naturalmente anche me stesso.